Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, ben ritrovati con Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Oggi parliamo di una storica iniziativa benefica legata al mondo della moda, una mostra mercato che ogni due anni da vent'anni a questa parte coinvolge stilisti e VIP a favore di Unlights. Si tratta di Convivio, l'undicesima edizione si è aperta venerdì a Milano, ci sono ancora due giorni di tempo per acquistare capi, accessori griffati al 50%, contribuendo ad una buona causa. Restiamo in tema con il focus sui trend dedicato ai consumi etici quando prodotti e servizi virtuosi fanno tendenza. Ma iniziamo come sempre con le notizie e curiosità di questa settimana. Anche Walt Disney dichiara guerra al cibo spazzatura per combattere l'obesità infantile. Dal 2015 tutti i prodotti che verranno pubblicizzati sul suo sito e sui suoi canali televisivi dovranno adeguarsi a nuovi strettissimi standard nutrizionali. Caramelle, cereali zuccherati e fast food non saranno più accettati. E nei parchi a tema saranno serviti pasti con un livello di sodio ridotto del 25%. È boom per i supper club, i ristoranti domestici. Nati in sordina a Londra e New York, si stanno moltiplicando in tutta Europa. Clima familiare, prezzi contenuti, non hanno insegne. L'unica pubblicità è il passaparola. Grazie a tutti. Con questo messaggio sul suo sito, Blockbuster Italia ha annunciato la chiusura del suo ultimo punto vendita. Una sconfitta, quella della catena di videonoleggio, partita dall'America e arrivata da tempo anche in Italia, decretata da TV on demand, streaming e download. È Mister Ikea Ingvard Kamprad, l'uomo più ricco d'Europa, fortuna personale stimata in 30 miliardi di euro. Subito dietro, secondo la classifica stilata dal magazine svizzero Bilan, lo spagnolo Ortega, creatore del colosso di moda Zara. Tra gli italiani figura al settimo posto la famiglia Ferrero. Sembrano di seta, ma sono fatti con un tessuto ricavato dal riciclo delle bottiglie di plastica. Sono i vestiti firmati Paul Langner, esposti a Torino nella mostra Recycle for Fashion. Lo stilista, che veste Pippa Middleton, ha creato uno di questi abiti anche per Livia Giuggioli, moglie di Colin Firth, che l'ha indossato sul red carpet degli Oscar 2012. La tecnologia è tutta made in Italy. La borsa della spesa. Erano momenti molto duri quelli per noi infettivologi, che ci siamo trovati di fronte a un problema non previsto e di dimensioni che andavano progressivamente crescendo. Non avevamo letti per i ricoveri, ambulatori, medici, infermieri, non avevamo laboratori, non avevamo attrezzature. E c'era anche un'opinione pubblica impreparata, gli stessi amministratori, gli stessi politici non erano preparati. E mi telefona un giorno Gianni Versace dicendomi: senta professore, io so che lei si sta facendo carico del problema, noi abbiamo appena fatto a Los Angeles una serata che ha avuto un grosso successo per la raccolta fondi, è possibile che non si possa fare nulla a Milano? Io sono andato a trovarlo e l'avrei abbracciato, anzi l'ho abbracciato. E così è nata anche un'amicizia che poi si è interrotta solo con la morte di Gianni. Gianni è stato bravissimo nel coagulare attorno a sé quelli che allora erano i quattro grandi della moda: Ferré, Versace, Valentino e Armani. E ci sono ancora delle fotografie storiche di questi grossissimi personaggi alla inaugurazione della prima edizione di Convivio. Così Mauro Moroni, presidente di Unlights, l'associazione nazionale per la lotta contro l'AIDS, ricorda la nascita di Convivio 20 anni fa da un'idea appunto di Gianni Versace. Convivio è il più importante appuntamento italiano che unisce moda e solidarietà. Fino a martedì 12 giugno a Fiera Milano City si avrà la possibilità di acquistare a metà prezzo capi e accessori firmati da alcune tra le etichette più prestigiose della moda, ma anche del design e della gioielleria. Il ricavato della vendita, a ingresso gratuito, sarà devoluto alla sezione lombarda di Unlights. Nonostante la crisi, il mondo della moda si è mobilitato, ci dice Franca Sozzani, direttore di Vogue Italia, a capo del comitato organizzatore, comitato che ha deciso di devolvere parte dell'incasso anche alle popolazioni colpite dal sisma in Emilia. Cioè, è chiaro che tutti hanno bisogno, non hanno bisogno i malati di AIDS, hanno bisogno tutti, però non si può dimenticare in questo momento quello che è successo in Emilia. E abbiamo pensato che la parte vintage, che è una parte che va piuttosto bene, perché sono vestiti o che hanno indossato delle celebrities o che sono stati dei pezzi unici o che sono dati da delle persone, diciamo, molto generose, ma sono tutti pezzi firmati, bellissimi, ad altissimo livello, con dei prezzi abbastanza bassi, poi addirittura dei cestoni da 20 euro, 30 euro, 40 euro. La lotta contro l'AIDS ha ancora bisogno di molto sostegno, ricorda il professor Moroni. Negli Stati Uniti l'infezione da HIV oggi è definita come la malattia dimenticato, il problema dimenticato. In realtà oggettivamente molte cose sono state cambiate, l'infezione non ha più quell'andamento epidemico di prima, però il problema resta, si infettano in Italia 4.000-4.500 nuove persone all'anno, a Milano circa 3 al giorno, sono persone che non si libereranno più dal virus, che dovranno essere curate per tutta la vita, che dovranno cambiare molte delle loro abitudini di vita, anche affettive e anche sessuali. Dobbiamo fare informazione, dobbiamo fare prevenzione, dobbiamo mantenere alto il livello della ricerca che c'è sempre stata in Italia per arrivare a vincere non solo le battaglie, ma per arrivare a vincere la guerra. Dobbiamo anche venire incontro a tanti problemi sociali delle persone sieropositive, perché se è vero che la crisi morde tutti, morde molto di più quelli che hanno dei problemi di salute cronica. Quindi abbiamo ancora tanto bisogno. Sfilata di star sul tappeto rosso alla serata inaugurale giovedì scorso, noi c'eravamo, abbiamo parlato di sobrietà, qualità e giusto prezzo con un vero e proprio guru della moda, Elio Fiorucci. Ormai il mercato obbliga tutte le aziende ad avere un comportamento serio, perché la gente è diventata molto consapevole della situazione, molto consapevole degli sprechi, molto consapevole del giusto e di ciò che non è giusto. Per cui questa iniziativa di convivio ha sempre più successo, perché è stata basata, creata, ideata su dei principi molto buoni. Lei, che ha basato molto della sua produzione estro creativo sull'ironia, sì, sul far ridere, la moda anche in questi tempi riesce ancora a far sognare, sì, a far ridere? Io penso di sì, non è una questione di prezzo, è una questione di gusto, è una questione di rompere quella piramide, diciamo, che è costituita, dove le cose belle costano molto e le cose meno belle costano meno, e invece si vede che cose che costano pochissimo sono piene di gusto e di ironia e anche di qualità. Allora la gente si è fatta sempre più, come dire, veloce nel capire, nel calcolare, cioè c'è una cultura molto più severa, una cultura molto più rigorosa e critica nel confronto un po' di quello che avviene nel mondo, per cui credo che questo sia positivo. La gente sta crescendo la propria conoscenza, quando cresce la conoscenza cresce il giudizio e cresce il bene, io sono convinto. Essere e avere. Vuoi rendere il mondo un posto migliore? Guarda te stesso e fai un cambiamento. Con Man in the Mirror, una delle più belle canzoni di Michael Jackson, apriamo il focus sui trend di questa settimana dedicato ai consumi etici. Accanto a me, come sempre, la nostra esperta Patrizia Martello, docente di sociologia dei consumi, analisi delle tendenze alla nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. Mai come in questi mesi segnati dalla crisi, l'etica torna a farsi sentire nei consumi, alla ricerca di modelli di consumo e di business virtuosi che non rinneghino certo il profitto, ma lo rendano anche utile e condivisibile con chi ne ha bisogno, sia esso la società, l'ambiente o una qualsiasi altra causa sociale. È una tendenza che nel marketing e nella comunicazione fa scuola e che contagia ormai tutti i settori. Patrizia. Sì, le istanze sociali, etiche, così come quelle ambientali, sono sempre più presenti e più pressanti. Etica e sostenibilità di fatto sono due facce della stessa medaglia, perché la vera sostenibilità poggia necessariamente su un piano etico e ci riferiamo soprattutto alle aziende. Trasparenza, verità nella produzione e nella comunicazione di prodotti e servizi sono sul fronte delle persone la grande aspettativa, sempre più una variabile influente sui criteri di scelta in fase di acquisto dei consumatori. Un indicatore del crescente interesse della gente comune per le imprese socialmente responsabili, quelle etiche, il successo di pubblico di Terra Futura, appena conclusa a Firenze, 80.000 visitatori, centinaia di aree espositive, di appuntamenti culturali, 600 gli incontri della borsa delle imprese responsabili, con aziende profit e non profit ascrivibili alla cornice del green e social business. E tra i modelli di business virtuosi anche il commercio equo e solidale, che in questo momento è anche aiutato dalla rete, perché non è facile sempre individuare i prodotti davvero equi e davvero solidali. Ed ecco che nasce una app per cellulari e tablet, per smartphone e tablet, si chiama The Fair Trade Finder, il Trova Commercio Equo, è una piattaforma di crowdsourcing, cioè fatta da tante persone diverse che, localizzati i prodotti solidali, li segnalano creando una grande mappa geolocalizzata condivisa in rete di negozi di riferimento, quindi per altri acquirenti eticamente orientati. Social business significa soprattutto impresa sociale, cooperazione, avere una mission mutualistica contestuale al business, se non prima del business. Abbiamo già raccontato il caso di The People Supermarket di Londra, cooperativa gestita da soci clienti che sono anche dipendenti volontari part time, fanno qualche ora di lavoro al mese in cambio di uno sconto del 10% sulla spesa. In un momento, come dicevi, di crisi, di incertezze economiche e di aspettative decrescenti, i termini come cooperazione, solidarietà e mutuo soccorso tornano in auge. Esemplari a questo proposito anche le iniziative spot di questi ultimi mesi di Coop Adriatica, che ha praticato in tutti i suoi punti vendita lo sconto del 10% sulla spesa ai lavoratori licenziati in cassa integrazione o con un contratto di solidarietà, soci Coop. Etica è una parola che sta colonizzando anche mondi nei quali, quando viene associata a termini quali banca o finanza, suona un po' come un ossimoro, però banca etica e altre banche etiche nel mondo sono comunque esempi di nuove direzioni evolutive anche di questi ambiti. L'abbiamo citato spesso, il social network delle belle storie, quello socialmente utile, Shiny Note, in questo caso etico è un aggettivo superfluo da non usare nel senso di implicito, perché è nel DNA di questo progetto. Su etica, sul bene e sul male, su morale, moralismo, vizi e virtù, una serie web americana, The Confession, firmata Sony Pictures, arrivata in Italia il 23 aprile scorso in esclusiva sulla piattaforma Streamit TV. Una storia in 10 puntate, ognuna dura circa 5 minuti, un po' noir sull'eterno conflitto tra bene e male, che è l'argomento di discussione in un confessionale, appunto, tra un cecchino di professione e un sacerdote. Questa serie è stata girata in 9 giorni a New York con un budget volutamente ridottissimo, grazie al fatto che gli attori hanno accettato di essere pagati molto meno, proprio per favorire la realizzazione di un prodotto culturale su temi importanti, il bene e il male e dunque anche l'etica dei comportamenti umani, per incentivare quindi le produzioni per il web potenzialmente in grado di stimolare la riflessione su questi temi in pubblici amplissimi, di fatto assediati da banalità e superficialità. Questa è l'idea del produttore. E anche il cinema porta in primo piano le questioni etiche, soprattutto nello scenario della finanza, responsabile numero uno per questa crisi. Esemplare in questo senso il film documentario Inside Job, premio Oscar 2010, che indaga le cause della crisi iniziata nel 2008 e mette a nudo il sistema della finanza corrotta. E quindi la protesta nasce spontanea. Come è potuto succedere? Gli interessi finanziari hanno distrutto il paese. In 5 anni, queste 3 piccole banche, che non avevano mai operato al di fuori dell'Islanda, si fecero prestare 120 miliardi di dollari, 10 volte le dimensioni dell'economia islandese. I banchieri annaffiarono di soldi se stessi, i loro colleghi e i loro amici. Cosa ne pensa delle entrate di Wall Street di questi tempi? Eccessive. Il governo sta firmando assegni in bianco e il piano A, il piano B e il piano C. Lei ha aiutato queste persone a far saltare l'economia. Possiamo dire così? Patrizia, in relazione a questa tendenza cambia anche il linguaggio, la comunicazione. Sì, ci sarà un nuovo vocabolario da stilare. Intanto rispetto, coraggio, sincerità sono le parole indagate nei primi 3 titoli di libri usciti per la nuova collana Moralia, le parole fondamentali dell'etica di Cortina Editore. Una collana che, citiamo dal sito, si propone di mettere a tema l'etica del mondo contemporaneo. E altra parola che esprime tutto il carattere morale della persona e del brand, dignità. Quella usata da Brunello Cucinelli, ma marchio italiano umbro di moda alto di gamma, la cui ultima campagna stampa recita il valore della dignità. Nuovo vocabolario per l'etica e anche nuove immagini da decodificare in questo senso. Per la campagna Unlides è stata scelta l'immagine di una modella glamour vestita da sera, testimonial della manifestazione Convivio di cui abbiamo sentito nella prima parte della trasmissione, con claim "diventa una donna attenta al prossimo". Rimaniamo nel mondo della comunicazione con l'agenzia newyorkese di product placement di prodotti etici. Si chiama proprio Green Product Placement e lavora per promuovere sui media tradizionali e digitali prodotti ecosostenibili di aziende con codice etico, inserendoli nelle produzioni di film, programmi televisivi o serie web. Sono passate da consumi inconsapevoli a consumi etici le 1200 famiglie bilanciste italiane, cioè quelle che aderiscono alla campagna Bilanci di Giustizia.it, il sito, lanciata nel lontano 93. Gli aderenti selezionano i prodotti da acquistare in base a criteri di giustizia sociale, etica e sostenibilità. Le famiglie che aderiscono a questo movimento usano dunque questi criteri come filtro per la spesa e inviano ogni mese alla Segreteria Nazionale Bilanci di Giustizia il loro personale bilancio sugli acquisti. Etica è impegno e nuovo modo di concepire i rapporti tra consumatori e aziende, ma non per questo deve essere associata solo a impegno e serietà, può e forse deve anche essere legata a leggerezza e gioco. L'uso del videogioco per promuovere le raccolte di fondi a scopi benefici è una di queste modalità. Per esempio il gioco di ruolo per smartphone Parallel Kingdom dà ai giocatori l'opzione di acquistare oggetti virtuali usando la moneta del gioco e poi, grazie alla piattaforma Giverboard, di tradurli in donazioni reali per specifiche azioni di beneficenza. Per esempio comprare barattoli di zuppa virtuali per la raccolta di fondi a sostegno di bambini kenioti nei periodi di siccità. Ed è una storia bellissima quella del cioccolato più etico del mondo. Prodotto nei Caraibi, viene esportato in barche di legno senza motore, si chiama Gru Gro Coco, è un marchio ecosolidale, non profit, il prodotto è totalmente biologico, sostenibile e competitivo in termini di prezzo. Il cacao viene raccolto e lavorato in una fabbrica a energia solare a St. Andrews, Caraibi. La nave che trasporta le barrette di cioccolato attraversa l'oceano in 6 settimane e consegna in Inghilterra a Rococo, l'azienda distributrice che le vende nei suoi negozi e online a 11 sterline e 95 l'una. Il 100% dei profitti sono redistribuiti ai produttori che per ogni pezzo venduto di cioccolato ripiantano un albero di cacao. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Parigi su consumi etici e dintorni? Ce lo racconta la nostra Urban Watcher, Alessia Zampano di Memetic Lab. Ciao Alessia. Ciao, un saluto a tutti. Beh, in questo caso Parigi parla italiano. Eticando, il nome la dice lunga, è un concept store che ha aperto i battenti sulle rive del Canal Saint-Martin. È un negozio, bar, ristorante e centro culturale che promuove il made in social italiano, se possiamo chiamarlo così. E infatti in questo spazio, allestito come una boutique dal sapore vintage e contemporaneo, sono in vendita i prodotti coltivati nei terreni confiscati alle mafie, quelli realizzati dai detenuti nelle carceri e quelli creati dai pazienti con problemi psichiatrici. Un mondo affascinante e eclettico, fatto di storie e talenti incredibili. Quello delle donne tessitrici della cooperativa Canciari, ad esempio, che fanno moda anti-ndrangheta nella Locride, o quella della cooperativa Ferro e Fuoco, nata nel carcere di Fossano, che produce mobili con materiali di recupero e con cui il locale è stato arredato, o ancora quella dei vini siciliani di Cento Passi, ma sono solo pochi esempi fra tanti. Eticando organizza anche periodicamente dibattiti e incontri per sensibilizzare il pubblico francese su temi quali l'economia carceraria, appunto, che riduce drasticamente la recidiva e dà una possibilità di riscatto alle persone, il consumo critico e la lotta al crimine organizzato, di cui il modello italiano della confisca e del riutilizzo dei beni è esemplare. Grazie Alessia. Patrizia, quando si parla di sostenibilità, il pericolo numero uno si chiama greenwashing, la pennellata verde, falsa in realtà nella sostanza di chi vuol cavalcare l'onda delle istanze ambientaliste, un problema che esiste per i consumi etici in generale. Sì, è così. I consumatori sono sempre più eco-consapevoli, eco-informati ed etico-consapevoli e ormai quasi pretendono prodotti e servizi all'altezza di queste loro aspettative. Le aziende non possono più permettersi di non essere trasparenti e sui processi produttivi, sui modelli organizzativi, quindi come gestiscono le persone, sui contenuti dei prodotti, sull'impatto, sulla comunicazione, eccetera. Infatti il grande tema critico, soprattutto sul fronte del consumatore che si deve orientare appunto nell'individuazione dei prodotti davvero etici, davvero sostenibili, è arrivare a una metrica di valutazione condivisa e delle imprese e dei prodotti. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere, riascoltabile e scaricabile come sempre dal nostro sito radio24.it, in attesa di risentirci domenica prossima dopo il GR delle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.